Allora, innanzitutto è bene precisare che non si tratta di una rievocazione storica, ma di un'iniziativa assunta da quattro personaggi, che non voglio aggettivare in altro modo, che hanno inteso trascorrere appunto il giorno 27 gennaio, un giorno che ha un altissimo valore simbolico, forse da loro non conosciuto, e questo dovrebbe interrogare un pochino tutti sulla realtà degli fatti e della conoscenza della storia in Italia. Hanno inteso, dicevo, trascorrere quella giornata sui monti dell'Appennino, travestendosi da SS e insomma girando per la montagna, tra l'altro a pochissima distanza da quelli che sono luoghi in cui si sono consumati terribili eccidi. Ad esempio il primo che mi viene in mente è quello di Caverna, che è proprio a 1 chilometro dal cavone dove loro sono stati poi fotografati da alcuni passanti, in cui nel 1944 si è compiuta una delle tante stragi dei nazisti ai danni della popolazione civile, in quel caso molte donne e bambini, 28 per la precisione, e quindi è evidente che diventa assolutamente insopportabile dover continuare a vedere queste rappresentazioni, queste persone che, forse non consapevoli della storia, della vita e del mondo, pensano di poter impunemente divertirsi in questo modo, chiamiamolo divertirsi. Quindi io ho semplicemente rilanciato quello che è stato il commento e la documentazione fotografica prodotta dalle persone, che cittadini che hanno incontrato queste persone così vestite, e ho pensato fosse opportuno procedere secondo le prerogative che abbiamo, quindi innanzitutto presentandomi una interrogazione in consiglio regionale per chiedere conto che venisse ricostruita tutta la vicenda e ovviamente capire le forze dell'ordine in che misura si sono mosse. Ho capito che, meno anche da quanto appare oggi sui quotidiani, la stazione dei carabinieri, la polizia locale, la polizia municipale hanno proceduto all'accertamento delle persone in questione, immagino adesso segnaleranno la procura, perché di sicuro non è possibile tollerare situazioni simili. Intanto sulla questione appunto del fatto che hai deciso di sollevare questo tema in regione, volevo chiederti se c'è già stata qualche risposta o comunque come pensavate di procedere. No, diciamo, perché adesso io presenterò un'interrogazione che sto presentando proprio in questi minuti, stiamo presentando un'interrogazione che ovviamente ha tempi di risposta previsti, insomma, in 30 giorni, quindi la risposta arriverà nei prossimi giorni. Di sicuro però, ad esempio, anche nel pomeriggio interverrò in aula, visto che si discute più o meno coincidentalmente, però si discute della legge sulla memoria che abbiamo approvato in Emilia Romagna e del piano triennale di attuazione della legge sulla memoria che abbiamo approvato lo scorso anno in Regione Emilia Romagna, e non mancherò durante il mio intervento di segnalare quanto avvenuto, stigmatizzandolo e portando all'attenzione di tutti in modo ancora più chiaro i fatti accaduti. D'altra parte vedo che ormai in Italia è abitudine quella di travestirsi indossando divise un po' a casaccio, degli alti livelli istituzionali a scendere, forse è il caso di rimettere le cose un po' al loro posto. Sì, tra l'altro appunto oltre a queste abitudini c'è anche, poi insomma tu dicevi a breve distanza dove si sono commessi degli eccidi, ma anche a breve distanza sia di spazio ma di tempo da dove poco tempo fa c'è stato il caso della maglietta Auschwitzland, quindi insomma è una deriva preoccupante. Sì, diciamo che questi avvenimenti, che possono essere forse da qualcuno intesi come non prioritari, in realtà segnalano un diffuso malcostume che ormai ha preso ampio spazio, per cui si ritiene tollerabile che nel nostro paese, nella nostra regione, possano appunto impunemente verificarsi fatti come questo, che chiamano o addirittura inneggiano alle pagine più oscure, più tristi e terribili del Novecento, e pensavamo in qualche modo di averci non solo lasciato alle spalle, ma di cui fosse matura la consapevolezza in un discorso pubblico comune, perché non credo che nessuno oggi possa permettersi di, in nessun modo, anche scherzando, inneggiare al nazismo e al fascismo impunemente. Purtroppo ciò avviene, e quindi dobbiamo anche interrogarci su quello che è effettivamente stato fatto in questi anni per far conoscere i fatti, per affermare i valori e i principi di chi ha combattuto contro i nazisti e contro i fascisti, fortunatamente vincendo. Però effettivamente tanti segnali che abbiamo in Emilia Romagna ovviamente, ma in Italia, addirittura anche in Europa, forse credo inevitabilmente impongano a tutti una riflessione profonda, perché anche quello che è avvenuto proprio il giorno della memoria, il 27 di gennaio ad Auschwitz, con quella manifestazione anche in quel caso della destra polacca, così terribile in quel luogo, credo non possa lasciare indifferenti. E tra l'altro, a proposito di citazioni, in realtà ne stiamo vedendo anche nel mondo politico, nel senso che era stato di un po' di tempo fa il tweet di Matteo Salvini, tanti nemici, tanto onore, ripreso poi oggi dal governatore Attilio Fontana in difesa appunto di Salvini sul caso della Sea-Watch, insomma una citazione che arriva sì, poi anche... Ma non c'è dubbio che diciamo la scarsa sorveglianza del linguaggio che utilizzano i vertici istituzionali per usare un eufemismo è un problema, perché le continue citazioni e riferimenti che si permette di fare il ministro degli interni, dal me ne frego al tiro dritto a tanti nemici, quanto onore, è evidente che occhieggiano a quella parte mai sopita evidentemente della cultura italiana e della una parte politica che tanto male ha fatto questo paese, ed è un problema, è evidente che è un problema, perché diciamo non si può continuare a lisciare il pelo a quelle latitudini, a quelle aree politiche impunemente. Ripeto, che lo faccia il ministro degli interni poi è addirittura terribile. Io poi, diciamo, venendo appunto dall'Appennino bolognese, venendo dalle zone che sono state attraversate dalla linea gotica, diciamo, vivo queste esternazioni in modo assolutamente insopportabile. Credo che siano insopportabili per tutti, a maggior ragione per chi ha vissuto e vive in quei luoghi e ha conosciuto e conosce bene il significato e il valore che la Resistenza ha voluto dire per il nostro paese.